277. Piccione all'inglese o piccion paio? Avverto qui una volta per tutte che nella mia cucina non si fa questione di nomi e che io non do importanza ai titoli ampollosi. Se un inglese dicesse che questo piatto, il quale chiamasi anche con lo strano nome di piccion paio, non è cucinato secondo l'usanza della sua nazione, non me ne importa un fico. Mi basta che sia giudicato buono e tutti pari. Prendete un piccione giovane ma grosso, vitella di latte magra grammi 100 oppure un petto di pollo, fette sottili di prosciutto grasso e magro grammi 40, fette di lingua salata grammi 30, burro grammi 40, mezzo bicchiere di brodo buono di grassato, un uovo sodo. Tagliate il piccione a piccoli pezzi nelle sue giunture, scartando la testa e le zampe. Tagliate la vitella di latte o il petto di pollo a bracioline e battetele con la costola del coltello. Tagliate il prosciutto e la lingua a strisce larghe un dito. Tagliate l'uovo in 8 spicchi. Prendete un piatto ovale di metallo o di porcellana che regga il fuoco e distendetevi a strati uno sopra all'altro, prima la metà del piccione e della vitella, poi la metà del prosciutto e della lingua, la metà del burro sparso qua e là a pezzettini e la metà, ossia 4 spicchi, dell'uovo. Condite con pochissimo sale, pepe e odore di spezie. Ripetete l'operazione col rimanente in modo che tutto l'insieme faccia la colma. Per ultimo, annaffiate col brodo suddetto ma ghiaccio che vedrete galleggiare sul primo orlo del piatto e che rimarrà in gran parte dopo la cottura. Ora formate una pasta per ricoprirlo nelle seguenti proporzioni. Farina grammi 150, burro grammi 50, spirito di vino un cucchiaino, zucchero un cucchiaino, agro di limone uno spicchio, un rosso d'uovo, sale quanto basta. Intridete la farina coi suddetti ingredienti e se non bastano aggiungete acqua tiepida per fare una pasta alquanto morbida. Lavoratela molto, gettandola con forza contro la spianatoia. Lasciatela un poco in riposo e tiratene una sfoglia addoppiandola 4 o 5 volte, riducendola per ultimo grossa come uno scudo col materello rigato. Con essa coprite il piatto adornandolo, se è possibile, coi ritagli della stessa pasta. Indi doratelo con rosso d'uovo. Cuocete questo pasticcio, che tale si può chiamare, al forno da campagna e servitelo caldo. A me pare che questo piatto venga meglio ammannito nella seguente maniera per dargli un carattere e un gusto più nazionale. Date prima mezza cottura al piccione e alle altre carni col detto burro, condendole col sale, il pepe e le spezie. Poi disponetele sul vassoio nel modo indicato, non escludendo l'intinto dell'umido e il brodo. Aumentando il condimento potrete unirvi anche rigaglie di pollo, animelle e tartufi.